siamo rote dentate di un ingranaggio perfetto tra la folla distante e un destino già scritto. Cerco nella memoria una luce che ho perso, mi si legge sul volto un movimento diverso. Taglio il cielo e guardo l'anima, le emozioni rubate che rimangono dentro sono foglie cadute sul sentiero del tempo. Inaspettatamente ancora, sembra tutto tranquillo come in nessun altro posto ora. La mia casa è il tuo mondo, dove ho solo voglia di tornare. Sento i nodi allentarsi e due anime danzare. Battito d'ali in un'anima oscura è la luce del giorno che ci mette paura. Mi potresti guarire con un colpo perfetto fino a farmi sparire questo atroce difetto. Le risposte appese all'anima, chiusi dentro la notte, le ferite da rimarginare. Aspettiamola insieme, quell'alba che dovrà arrivare. La musica dentro che ho smarrito distrattamente torna quando la cerco, non so mica.